Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale che riduca per quanto possibile le aliquote sui redditi dei dipendenti e anche dei pensionati, che pur essendo fuori dal circuito produttivo, frequentemente sostengono le generazioni più giovani, oltre che le imposizioni gravanti sulle imprese alle quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio del Paese. L'alleggerimento della fiscalità potrebbe evitare, soprattutto in un momento di crisi globale, la costante erosione del potere d'acquisto delle famiglie e un'ulteriore contrazione del mercato interno che non favorisce il gettito erariale. Insomma, avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nel momento in cui il tema della pressione fiscale troppo elevata anima il dibattito politico, ne abbiamo parlato anche questi giorni, interviene sull'argomento anche la Corte dei Conti, per voce che avete sentito della procuratrice generale Fausta Di Grazia, che scende in campo per sostenere l'alleggerimento delle aliquote. Dice che il taglio delle tasse, insomma, non è più rinviabile, perché la via maestra per il rilancio del paese sono gli investimenti, sono la sburocratizzazione, però prima di tutto non si può rinviare più il taglio delle tasse. Ce ne occuperemo, così come anche delle stime per quanto riguarda il prodotto interno lordo italiano, quindi la ricchezza italiana, molto pessimistiche del Fondo Monetario Internazionale. Poi poco fa ha cercato di smussare un po' questo pessimismo il ministro dell'economia Gualtieri. Comunque ce ne occuperemo, così come anche, a proposito di crisi economica e di chi la paga soprattutto, parleremo anche del mercato del lavoro e delle donne, delle neomamme, che nel 2019 quasi in 40.000, poco meno di 40.000, hanno dovuto lasciare il lavoro per non riuscire a conciliare famiglia e lavoro, visto che il lavoro di cura ricade sempre poi su di loro. Quindi moltissimi argomenti di una certa pregnanza anche questa sera, nella puntata di questa sera. Per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, e poi per i WhatsApp 349-238-6666. Molti approfondimenti quindi tra poco con gli ospiti. Il Twitter, lo sapete, di Effetto Notte, durante la diretta c'è, e poi durante il giorno Roby, per alcune anticipazioni, Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. I dati sul coronavirus in Italia: sono 190 i nuovi casi di contagio, 30 le vittime in un giorno, e ora torna il dubbio sulla riapertura delle frontiere europee. La crisi economica, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il PIL dell'Italia ancora più giù del previsto, il debito sale al 166% nel 2020 e l'appello della Corte dei Conti a tagliare le tasse. Lavoro e famiglia: in un anno si sono dimesse 37.000 neomamme. Tragedia vicino Varese: crolla un cornicione fuori da un centro commerciale, morti madre e due figli piccoli. Libia, il 2 luglio il via ai negoziati con l'Italia sulla gestione dei flussi migratori. L'orso che ha ferito padre e figlio in Trentino, polemiche sull'ordinanza annunciata dal presidente della provincia di Trento per abbattere il plantigrado. Calcio, Serie A maschile, big match in serata tra Lazio e Atalanta per chiudere la 27esima giornata. Partiamo quindi, come sempre, dal bollettino quotidiano relativo al coronavirus in Italia. Sono dall'inizio della pandemia 239.410 i contagiati da coronavirus in Italia. L'incremento giornaliero è di 190 nuovi casi. Il dato della Protezione Civile comprende quello di 239.410 attualmente positivi, vittime e guariti. Sono 5 le regioni ad aumento zero: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento, che comunica però un ricalcolo di 387 casi in più. E sono 30 nelle ultime 24 ore le vittime da coronavirus nel nostro paese, a fronte delle 18 di ieri. Il numero totale quindi dei morti in Italia dall'inizio della pandemia è di 34.644. Nessuna vittima in 11 regioni per il coronavirus. Si tratta di Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. E sono saliti a 186.111 guariti e dimessi per coronavirus nel nostro paese, con un incremento rispetto a ieri di 1.526. Contagi in frenata in Italia e in Europa e ospedali che si svuotano, ma per il ministro Roberto Speranza sul Corriere.it la battaglia non è ancora vinta e dobbiamo continuare a usare le mascherine, mantenere le distanze e evitare assembramenti. A dargli ragione i focolai che ancora emergono in Europa, come quello dei mattatoi tedeschi o delle due scuole elementari di Parigi, chiuse dopo 10 giorni per alcuni bambini positivi. Ma a preoccupare soprattutto l'andamento del contagio nel mondo, ancora in piena espansione, arrivato a 9,3 milioni di casi e 478 mila morti. Il virus è in forte crescita in tutto il Sud America e in Messico, negli Stati Uniti dove si registra il record di 35.000 contagi in un giorno e in India, ma i casi aumentano anche in paesi a noi vicini come Serbia, Ucraina, Armenia, Israele. L'Unione Europea sta preparando criteri oggettivi e unitari in base ai quali aprire o meno le frontiere esterne, al momento chiuse fino al 30 giugno. Gli ambasciatori riuniti a Bruxelles hanno definito per ora una bozza con circa 25 paesi verso i quali mantenere le restrizioni all'ingresso nell'Unione. La lista sarà comunque variabile nel tempo in base all'andamento del virus. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo Boston e, solo per i dilettanti, Tokyo, anche le maratone di New York e di Berlino hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte al coronavirus nella stessa giornata e quasi in contemporanea è arrivato l'annuncio della cancellazione dell'evento più partecipato al mondo, la maratona di New York, che doveva festeggiare la 50ª edizione nella Grande Mela e della prova nella capitale tedesca, che per il suo percorso veloce ha fatto segnare tanti record nel mondo. Per ora tra le più note resistono Chicago e Londra nella speranza che il virus molli la presa. E siamo alla crisi economica scaturita dal coronavirus. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime della produzione per l'Italia nel 2020. Il PIL quest'anno è previsto contrarsi del 12,8%, ovvero 3,7 punti percentuali in più rispetto al meno 9,1 delle previsioni di aprile. Per il 2021 il PIL è stato rivisto al rialzo al più 6,3%. Ne parleremo comunque nel corso di questa puntata. Così come dell'appello, avete sentito all'inizio, della Corte dei Conti, che si inserisce nel dibattito politico rispetto alla questione della pressione fiscale, dice il taglio delle tasse non è più rinviabile. A proposito di crisi economica, parliamo di lavoro. Sono 37.611 le lavoratrici neomamme che si sono trovate nella condizione di doversi dimettere nel corso del 2019. I papà che hanno lasciato il posto sono invece stati 13.947. I dati sono quelli dell'Ispettorato del Lavoro, che ogni anno aggiorna le informazioni sulle convalide di dimissioni e risoluzioni consensuali di madri e padri, e si legge nella nota: come di consueto la maggior parte delle persone che sono dovute dimettere, si fa notare, ha riguardato le madri, lo è nel 73% dei casi. A parlarne poi ci sarà, qui Effetto Notte, Linda Laura Sabbadini, componente del comitato di Vittorio Colao. Siamo alla politica. Fumata nera al vertice di maggioranza, Conte contro tutti per il taglio dell'IVA e non si trova d'accordo per i fondi europei per la sanità. Continua il dibattito politico sul taglio dell'IVA per rilanciare i consumi ipotizzato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche se per la fase 3 molte voci sono più a favore del taglio delle tasse al lavoro e alle imprese, e anche l'Europa è scettica perché si sostiene i fondi europei andranno usati per progetti coerenti con quelli dell'Unione, ma con il Recovery Fund non si tagliano le tasse. Merkel e Macron stanno a diverse indiscrezioni di stampa, avrebbero fatto sapere al Presidente del Consiglio di non condividere il progetto fiscale. Su questa linea anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sulle pagine del Messaggero ribadisce che i fondi europei servono per investimenti e riforme per il lavoro e il benessere, non certo per abbassare le tasse, e parla semmai di intervento temporaneo e utile. Per il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, l'abbassamento IVA fa parte del grande pacchetto di idee, e per il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta sull'IVA la discussione è utile, ma bisogna forse partire da una riforma fiscale dall'IRPEF. Cauto anche Romano Prodi su Quotidiano Nazionale, che ricorda l'eccezionalità e la disponibilità degli aiuti europei per l'economia e la sanità, tra cui il MES, senza condizioni. Bisogna valutare, sottolinea, se sia meglio ridurre l'IVA, il cuneo fiscale o prendere altre misure e capire cosa vuol dire temporaneità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Guardia di Finanza, nel corso delle perquisizioni nell'inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati per i lavori della metro a Milano, che ieri ha portato a 13 arresti, ha trovato nella disponibilità di Paolo Bellini, il dirigente ATM finito in carcere e ritenuto il dominus del sistema, 17.000 euro in contanti a casa sua e 50.000 euro nelle sedi di società a lui referibili. Sono stati trovati anche 20.000 euro nella disponibilità di un altro indagato. Aspettando gli interrogatori di garanzia dei 13 destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare, di cui 12 in carcere non domiciliari, emergono nuovi dettagli sull'inchiesta relativa a presunte irregolarità nell'assegnazione di 8 gare di appalto di ATM, l'azienda milanese di trasporto pubblico locale. La Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nella disponibilità di Paolo Bellini, il dirigente ATM ritenuto il dominus del sistema corruttivo, sono stati trovati 17.000 euro nella sua abitazione e 50.000 euro tutti in contanti negli uffici della IVM, una delle società di cui Bellini si serviva per ottenere subappalti dalle imprese vincitrici delle gare che lui stesso avrebbe truccato fornendo informazioni privilegiati. Tra gli appalti sotto la lente degli inquirenti, in particolare quello da oltre 100 milioni di euro del marzo 2019 per la metropolitana milanese, con gli accertamenti che puntano a ricostruire il comportamento di Bellini e se il dirigente abbia potuto contare anche su altri funzionari di ATM. Flavia Carletti da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla scuola, acque agitate intorno all'istruzione, la scelta dell'autonomia scuola per scuola avanzata dalla ministra Azzolina agita i presidi, ne abbiamo parlato in parte ieri con Mario Rusconi, appunto rappresentante dei presidi, e abbiamo parlato anche dell'educazione civica, ma sentiamo a proposito dell'agitazione dei presidi che cosa ha detto oggi il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli a Effetto Giorno, intervistato da Alessio Maurizio. Noi ci aspettavamo delle indicazioni più precise, più specifiche, tanto per dirne una, quello che si può definire il livello minimo di servizio. Si demanda tutto a dei tavoli regionali composti da tantissime persone che credo che avranno qualche difficoltà a dare a loro volta indicazioni concrete e operative. Le linee guida sì, dicono si può andare a scuola il sabato, ma questo lo sapevamo anche prima. Già ci sono scuole che lo fanno e scuole che non lo fanno. Appunto non è un problema questo e non è neanche una soluzione. Quello che conta, ripeto, è il numero poi di ore di lezione effettivamente erogate. Quindi è questo che manca, perché io non riesco a capire da questo documento se è possibile apportare uno sconto, diciamo così, al numero di ore complessive, purché però siano garantite a tutti o no. All'estero con la Libia, il 2 luglio sarà la data per l'avvio dei negoziati sulla modifica del memorandum con la Libia in tema di migranti. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, di ritorno oggi da Tripoli, aggiungendo che la proposta libica di modifica deve essere approfondita, ma sembra andare nella giusta direzione, ha detto Di Maio, per quanto riguarda le richieste italiane di tutela dei diritti umani. Il viaggio del ministro italiano degli esteri Luigi Di Maio a Tripoli questa mattina punta soprattutto ad affrontare, rielaborandolo, il dossier migrazioni con le controparti del governo libico di accordo nazionale. In ballo ci sono le proposte di modifica al memorandum di cooperazione Italia-Libia, il documento che fra i tanti argomenti affronta anche quello della questione dei traffici di esseri umani. Si parte dunque e soprattutto da quell'intesa firmata dal governo dell'allora premier Paolo Gentiloni nel 2017, ma di cui diversi progetti non hanno visto luce a causa dell'intensificarsi della guerra civile tra le forze militari del governo di Tripoli e quello della Cirenaica, guidate dal generale Khalifa Haftar. Il traffico di migranti sta però recentemente registrando sensibili aumenti. Tripoli ha chiesto all'Italia droni, denaro e supporto logistico in cambio della cooperazione in materia di flussi di migranti. Farsi sfuggire anche questo dossier significherebbe mettere nelle mani della Turchia o di altri paesi un'arma davvero strategica. Roberto Mongioni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso di nuovo in Italia con la cronaca si aggrava il bilancio della tragedia di Albizzate vicino Varese, dove nel tardo pomeriggio una parte del tetto di un'ex fabbrica è crollato. All'ospedale di Gallarate, dove era stata trasportata in elicottero, è morta anche la bambina di 15 mesi travolta dai detriti che hanno ucciso anche la mamma e il fratellino. Violenza sulle donne, una petizione per chiedere al sindaco di Milano Beppe Sala di dedicare una statua a tutte le bambine e ragazze vittime di abusi e violenze. Lo lancia a Terre des Hommes, spiegando che secondo il dossier In Difesa, ogni minuto, ogni 60 secondi nel mondo, 23 bambine e adolescenti sono costrette a sposare uomini spesso molto più grandi di loro e a subirne le violenze. E in Italia nel 2018 sono state più di 900 le bambine e le ragazze vittime di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata. Parliamo di orsi. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che firmerà nelle prossime ore un'ordinanza che prevede l'abbattimento di un orso non ancora identificato che nel pomeriggio di lunedì ha aggredito padre e figlio sul Monte Peller in Val di Non. Sono stati inviati al laboratorio della Fondazione MAC gli abiti delle due persone ferite che serviranno a identificare l'animale attraverso l'esame del DNA. Per avere i risultati, spiegano in provincia, ci vorrà qualche giorno. Intanto l'annuncio di questa dell'ordinanza del presidente della provincia di Trento per abbattere l'orso sta provocando polemiche e reazioni di cui parleremo nel corso di questa puntata. A fronte di questa caccia all'orso è stata firmata dal presidente dell'ente parco Arcipelago Toscano, Sammuri, un'ordinanza di interdizione all'accesso del tratto di mare dell'isola di Capraia, vicino in provincia di Livorno, compreso tra Punta delle Cote e No a nord e la baia a sud di Punta delle Cote, dove è stato avvistato a più riprese un esemplare di foca monaca, il più raro mammifero marino in Europa, pensate, considerata una delle specie più minacciate del pianeta, con un contingente complessivo attuale stimato in soli circa 700 esemplari. Ora Dario Ricci invece ci parla di altri esemplari che stanno correndo nei campi dell'Italia, vero Dario? Eh sì, siamo a San Siro, il prato è sicuramente prestigioso, anche se le tribune, come ben sai Roberta, sconsolatamente vuote, causa forza maggiore. 82esimo di gioco, 2-2 tra Inter e Sassuolo, pochi istanti fa è arrivato il pareggio degli emiliani su calcio di rigore trasformato da Berardi dopo il fallo di Young su Muldur, ma partita davvero ricca di emozioni. Adesso l'Inter in avanti, chiusura in calcio d'angolo, sa calcio d'angolo per i nazzurri, dicevamo Sassuolo propositivo e subito in gol al quarto minuto con un bel contropiede finalizzato da Caputo, poi un Inter in difficoltà questa sera ma che se nel finale del primo tempo, prima col calcio di rigore di Lukaku e poi al 45esimo con una bella combinazione conclusa da Biraghi, sembrava averla rimessa in piedi sul 2-1. Addirittura a metà della ripresa è arrivata una clamorosa occasione gol fallita da Gagliardini che a un metro dalla porta a porta vuota ha calciato clamorosamente sulla traversa. E allora pochi istanti fa, come vi raccontavamo, esattamente all'81esimo, fallo di Young su Muldur in area di rigore, stavolta il rigore è appunto per il Sassuolo, Berardi freddo dal dischetto a battere Andanovic. Quindi all'83esimo di gioco qui a San Siro risultato di 2-2 tra Inter e Sassuolo, alle 21.45 tocca alle Romane, campo principale Bergamo con il big match tra Atalanta e Lazio e poi Roma-Sampdoria. Bene, ci aggiornerà poi, oltre che da San Siro, da Ricci, anche sulle prossime, sulle partite che dovrebbero cominciare tra circa mezz'ora. Intanto qui mi fermo per gli aggiornamenti rivolti a chi viaggia e tra pochissimo ci risentiamo per cominciare ad affrontare i temi con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ricchissime di informazioni, di sintesi della giornata, gli aggiornamenti in diretta, avete sentito anche per esempio per quanto riguarda le partite, ma le notizie che arrivano man mano come sempre, ho gli occhi dappertutto, anche sui vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666 per i WhatsApp. Leggo adesso una notizia di questi istanti: Toscana autorizza la pillola abortiva negli ambulatori. Sapete che anche questo è sempre argomento di polemica, di blocchi, di appelli eccetera. Adesso questa è una notizia che appunto riguarda la regione Toscana, quindi negli ambulatori sarà possibile. Vediamo un po' più in modo approfondito questa notizia. La giunta della regione Toscana approverà lunedì prossimo un protocollo per garantire su tutto il territorio regionale l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica come prestazione ambulatoriale anche presso i poliambulatori pubblici autorizzati e collegati agli ospedali. Adesso però, a parte le tante notizie che vi ho sintetizzato all'inizio della puntata, comincerei questo primo tema di approfondimento di stasera dicendo che è confermato che l'Italia non è un paese per donne. E che cos'è che ulteriormente adesso nelle ultime ore conferma questo dato di fatto assurdo quanto ingiusto, sconfortante? Viene dalla fotografia scattata dall'Ispettorato del Lavoro, che rileva che di fronte alla nascita di un figlio sono sempre più le mamme che si trovano nella situazione di dover lasciare il loro posto di lavoro rispetto ai padri. Secondo i dati, appunto, dell'Ispettorato del Lavoro, che ogni anno aggiorna le informazioni sulle convalide di dimissioni e di risoluzioni consensuali di madri e padri, sono 37.611 le lavoratrici neomamme, 37.611, che si sono dimesse nel corso del 2019, mentre i padri che hanno lasciato il posto di lavoro sono stati 13.947. E in questa nota dell'Ispettorato del Lavoro si legge proprio come di consueto ha riguardato questo doversi dimettere, ha riguardato le madri nel 73% dei casi. Allora, su questo tema voglio coinvolgere chi se ne occupa da tanto tempo delle questioni di genere, che è una grande sociologa e anche investe soprattutto di componente del comitato di Vittorio Colao, che voi sapete è incaricato dal governo di fornire un piano per il rilancio del paese dopo questa grave crisi dovuta al coronavirus. È Linda Laura Sabbadini che saluto. Buonasera Sabbadini. Buonasera a tutti. Quindi evidentemente questo è un vecchissimo problema delle madri che devono lasciare il lavoro a causa dell'impossibilità evidentemente di conciliare la necessità di accudimento, che poi grava sempre, diciamolo, sulle spalle delle donne, e con l'attività lavorativa, no? È sempre questa, diciamo, conferma per l'ennesima volta questo gap, questo divario, no, tra donne e uomini sulla possibilità di lavorare fuori di casa, di percorrere anche a volte delle percorsi professionali diciamo gratificati, e comunque che insomma assicurano un sostegno economico, Sabbadini, e l'autonomia, l'indipendenza. È proprio così. Il problema è serissimo, perché ormai ne stiamo parlando da anni e anni, sono decenni che affrontiamo questo problema, che lo registriamo, che se ne parla all'interno a partire anche dalle statistiche ufficiali che l'hanno documentato da tantissimo tempo. E questo è una questione che fino adesso non è stata mai affrontata seriamente, nel senso che se ne parla, si denuncia, ma poi non ci si dota di una strategia adeguata, non si investe per risolvere il problema e non si decide una volta per tutte di fare dell'uguaglianza di genere un asse strategico del paese. Sabbadini, tra l'altro, mi perdoni, quando è stato presentato all'inizio di giugno il piano di Vittorio Colao, io avevo notato, appunto, poi presentandolo in trasmissione con i miei ospiti interlocutori, che uno degli aspetti più interessanti era proprio questa, una serie di strategie, di misure per assicurare la parità di genere, no? A partire quindi dal lavoro, e poi questo ovviamente dando autonomia e parità dovrebbe riequilibrare anche i ruoli familiari, diciamo così. Però non sì, so se è stata un'attenzione fortissima, tant'è che i tre, diciamo, pilastri strategici che sono segnalati proprio all'inizio del documento sono l'innovazione e la digitalizzazione, la rivoluzione verde e la parità di genere e l'inclusione. E si dice proprio esplicitamente che per la prima volta il paese deve scegliere questa strada, cioè deve rompere con una logica in cui sono state solo parole e non si è mai effettivamente investito, perché è vero investimento questo, nel superamento di questo problema del sovraccarico di lavoro di cura sulle spalle delle donne, che agisce su tutte le donne che lavorano, agisce su quelle che si trovano anche ai livelli alti e su quelle che si trovano maggiormente ovviamente in una situazione più critica, che sono costrette per la rigidità dell'organizzazione del lavoro, per come sono configurate le cose nel nostro paese, per la mancanza di strutture educative, di servizi educativi per l'infanzia che al sud non arrivano neanche al 10%, per il fatto che non c'è condivisione all'interno della coppia, sono condannate in un quarto dei casi a lasciare il lavoro al momento della nascita dei figli. Questo è, i dati ce lo dimostrano oggi, che sono stati diffusi oggi, ma sono ormai la normalità del nostro paese. Tutti i paesi hanno investito su questo. La Svezia ha iniziato dagli anni 50, da quando le donne hanno cominciato a entrare nel mercato del lavoro e ha accompagnato l'ingresso nel mercato del lavoro delle donne con questa politica di sviluppo dei servizi sociali, servizi educativi per la prima infanzia e servizi di cura. Il nostro paese non lo ha mai fatto. Sabadini, sono per esempio, leggo un messaggio di Mario che dice What Women Want, titolo di un film di successo di qualche anno fa, che ricordo, dice cosa vogliono le donne? Vogliono far carriera, dice Mario, vogliono diventare madri o portare avanti una famiglia. A volte l'incastro tra tutti questi ruoli è veramente complicato. Alcune donne hanno preferito la carriera, altre volere espletare il ruolo di mamma, altre semplicemente quello di moglie. Tutte scelte accettabili. L'Italia tutela alcuni ruoli e meno altri? Sicuramente sì. Io credo però che la famiglia, dice, non si dovrebbe mai perdere di vista. Però in qualche modo sottintendo che le donne non sanno quello che vogliono, vorrebbero tutto, ma in realtà è che se ci fosse condivisione, no, anche dell'incombenza, delle cure in famiglia, eccetera, tutti potrebbero, no, se si vuole fare una famiglia. Allora, perché gli uomini non si interrogano su questo? Allora, rispondo a lui. Il problema qual è? Perché ci dobbiamo porre il problema che le donne devono scegliere tra una cosa e l'altra? Le donne vogliono realizzarsi su tutti i piani. Gli uomini vogliono realizzarsi su tutti i piani? Io spero di sì. Sarebbe bene che si realizzassero anche sul piano di essere padri, perché la paternità è una cosa bellissima che forse se loro stessi dedicassero più tempo a questo sarebbe tutto di guadagnato, perché ci sarebbe anche maggiore condivisione all'interno della coppia. Tra l'altro nelle coppie giovani questo atteggiamento sta anche crescendo positivamente. Sì, un po' di più. Il problema è che le donne non stanno scegliendo. Quello che stanno facendo le donne è che sono costrette a prendere, a fare una scelta o a farne un'altra, perché non sono messe in condizioni di poter vivere liberamente. Tra l'altro, Sabadini, ricordo che questi dati delle 37.611 mamme che hanno dovuto lasciare il lavoro sono relativi al 2019, quando ancora non c'era stata tutta la crisi del coronavirus. Quindi questo significa che i dati poi che ci saranno per tutto il 2020, diciamo, presumibilmente potrebbero essere ancora peggiori, no? Immagino. Bisognerà vederli i dati del 2020, perché la situazione per le madri è stata particolarmente critica sotto il coronavirus, ovviamente è stata critica per tutti, però per chi aveva bambini piccoli e li ha avuti anche in casa e lavorava, allora se lavorava nella sanità o lavorava in settori molto esposti, ovviamente il problema era grande, perché i nonni non potevano farsi carico dei nipoti come tradizionalmente fanno. Ma nel caso in cui anche lavorasse magari in casa, in smart working, aveva il problema che il lavoro di cura dei figli si sovrapponeva al lavoro extradomestico proprio come tempi, perché contestualmente la donna svolgeva questo doppio ruolo. Quindi è stata una cosa molto stressante ovviamente per le donne. La cosa positiva è stata anche che da un'indagine che abbiamo condotto come Istat è venuto fuori che comunque c'è stato un coinvolgimento dei padri maggiore, soprattutto quelli che sono rimasti in smart working a casa, perché hanno avuto la possibilità di essere coinvolti di più anche nella cura dei figli, magari di più sul gioco o attività che sono meno di assistenza, però questo è stato un dato positivo. Però lo stress sulle madri è stato grande. C'è un ascoltatore, Sabadini, che dice no, io sono un uomo, non voglio figli e pretendo il diritto di non volere figli, e nessuno obbliga nessuno a avere figli. Una volta che però si fanno, vanno condivisi, va condivisa la cura dei figli. Mentre Chiara da Padova, vediamo se riesco a aprire questo WhatsApp in questi giorni, ci sono un po' di problemi tecnici, dice non dimentichiamoci poi a fine carriera l'impegno di cura per gli anziani, genitori o suoceri, e magari una volta in pensione riparte la ruota con l'aiuto ai propri figli, ai nipoti, eccetera eccetera. Dice alla fine, quando inizia a vivere la donna, si chiede questa ascoltatrice Chiara da Padova. In effetti questa, diciamo, un po' la tragicommedia. Però Sabadini, La ministra Catalfo, la ministra del Lavoro, oggi è intervenuta su questi dati dell'Ispettorato del Lavoro e che dice confermano la necessità e l'urgenza di misure rivolte alle donne come quelle su cui il governo è già concentrato. L'intenzione di avviare una seria azione di contrasto al part-time involontario che penalizza principalmente le donne e, come stabilito dal programma di governo, dice Catalfo, introdurre nel più breve tempo possibile, coinvolgendo il Parlamento, una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni. Poi dice un primo passo avanti, lo abbiamo fatto col Family Act, nel quale, fra le altre cose, oltre all'assegno unico e al potenziamento dei congedi parentali, è prevista una quota di riserva della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l'avvio delle nuove imprese start-up femminili e l'accompagnamento per i primi 2 anni. È sufficiente? Allora, io non penso sia sufficiente, penso che sia sicuramente utile. La cosa fondamentale che penso è che quello che è emerso dalle proposte che abbiamo inserito nel piano Colao era proprio questa, cioè dobbiamo avere il coraggio, una volta per tutte, di investire seriamente non solo su alcune cose, ma di adottare un sistema, una strategia, cioè dobbiamo alzare per esempio la percentuale di bambini che vanno al nido perlomeno al 60%, questo creerebbe 100.000 posti di lavoro per le donne, dobbiamo fare in modo che si assuma molto di più nella sanità, nell'assistenza sociale. Noi stiamo ad un livello rispetto alla Germania che dovremmo incrementare gli occupati in questo settore, l'abbiamo messo nel piano Colao, di 1.700.000. E siccome lì la maggioranza sono donne, rendetevi conto che entrerebbero un 70% di donne. Noi siamo in fondo alla graduatoria in Europa. Cioè, quello che voglio dire, paese, dobbiamo agire sui congedi parentali, in parte è stato fatto sicuramente nel Family Act. Quello che dico è che c'è bisogno di un sistema di queste azioni e di metterci soldi, tanti soldi come mai è stato fatto e come è stato fatto dalla von der Leyen in Germania, come è stato fatto nei paesi nordici e come investono i francesi, che investono molto per esempio sul costo dei figli e noi molto meno. Anche perché poi questa, Sabatini, è un'ipocrisia, nel senso che tutti i governi che si sono man mano succeduti, centrodestra, centrosinistra, qualsiasi schieramento, no, parlano tanto di famiglia, famiglia, del sostegno alla famiglia, poi dopodiché nessuno fa niente di concreto, soprattutto per chi il carico più grande ce l'ha sulle spalle, cioè le donne. Chiudo con questo messaggio di Amy che dice: Roby, state affrontando il problema dal lato sbagliato, il fatto che gli uomini anche oggi non mollano il lavoro imponendo lo stop del lavoro alle donne, perché con la differenza della remunerazione, se io devo rinunciare a uno stipendio in famiglia, scelgo di rinunciare allo stipendio più basso, che in genere è quello delle donne, e anche qua c'è il problema di far diventare le retribuzioni pari per uomini e donne, anche questo, no? Un gap, certo, forte anche in Italia, è un'altra battaglia di cui si parla da tanto tempo. Speriamo, Linda Laura Sabatini, di arrivare a un punto, anche se questa crisi non mi sembra che abbia insegnato moltissimo, ma insomma cerchiamo di non essere troppo pessimisti. Grazie Linda Laura Sabatini e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Qui ci fermiamo per la solita piccola pausa di riflessione per i vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Note, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e poi c'è il numero di WhatsApp 349-238-6666. Fra l'altro, cambiando argomento, c'è in atto uno scontro tra il ministro dello sport Spadafora e il comitato tecnico scientifico, perché il ministro Spadafora oggi aveva annunciato a breve la ripresa del calcetto di sport di contatto, il comitato tecnico scientifico circa un'ora fa o poco più di un'ora fa, leggevo, ha detto no, niente sport di contatto e calcetto. Spadafora adesso dice non sono d'accordo con il comitato tecnico scientifico, vedremo chi la vince. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, suonata e composta da Roberta Giordano, per avere un quadro il più possibile chiaro ed esauriente a fine giornata sulle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Abbiamo parlato lungamente di questi dati preoccupanti, sconfortanti dell'Ispettorato del Lavoro sulle tantissime migliaia di donne che nel 2019, neomamme, hanno dovuto lasciare il lavoro perché costrette, insomma, a dover dover fare una scelta. Contatti i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per i WhatsApp 349-238-6666. Vi ho anche dato la notizia di questo contrasto in corso tra il ministro dello sport Spadafora, che ha risposto al comitato tecnico scientifico che un'oretta fa circa lo ha smentito dicendo no, non è possibile riprendere col calcetto e gli sport di contatto, e adesso è intervenuto Spadafora dicendo non sono io d'accordo su questo stop del comitato tecnico scientifico. E poi, per quanto riguarda la scuola, altro tema caldissimo di questi giorni, sapete che tra domani, dopodomani al massimo, dovrebbero essere rese note le linee guida per la ripresa a settembre. Ne abbiamo parlato ieri, tra ieri e oggi, e dice, adesso interviene il presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dice se si vuole un documento condiviso con le regioni, le linee guida si devono concordare, dice. Quindi noi vogliamo essere protagonisti. E allora, a proposito quindi della questione della ripresa, del rilancio dell'Italia, dei problemi occupazionali di cui abbiamo parlato prima, che gravano soprattutto sulle donne, torniamo a parlare delle previsioni per l'economia italiana. Appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale che riduca per quanto possibile le aliquote sui redditi dei dipendenti e anche dei pensionati, che pur essendo fuori dal circuito produttivo, frequentemente sostengono le generazioni più giovani, oltre che le imposizioni gravanti sulle imprese alle quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio del Paese. L'alleggerimento della fiscalità potrebbe evitare, soprattutto in un momento di crisi globale, la costante erosione del potere d'acquisto delle famiglie e un'ulteriore contrazione del mercato interno che non favorisce il gettito erariale. Come avete sentito all'inizio di questa puntata, no? La procuratrice generale della Corte dei Conti, Fausta Di Grazia, che oggi appunto ha detto in sintesi il taglio delle tasse non è più rinviabile in Italia. La situazione economica già è molto pesante per l'eredità del passato, in più è stata aggravata la difficoltà della nostra economia dal coronavirus. E quindi c'è l'urgenza di un piano strategico di rilancio della nostra economia. Ovviamente deve passare per maggiori investimenti, per la sburocratizzazione, però in primo luogo, secondo la Corte dei Conti, non potrà prescindere da una riduzione delle tasse. E poi ci sono le previsioni molto nere del Fondo Monetario Internazionale oggi per quanto riguarda l'Italia, che vede a ribasso le stime del prodotto interno lordo italiano con un meno 18,8%. Ne voglio parlare con il guru praticamente dei divulgatori economico-finanziari, che è Moria Longo del Sole 24 Ore. Caro Moria, buonasera a tutti. Bentornato qui a Effetto Notte. Quindi addirittura si parla di una recessione da parte del Fondo Monetario Internazionale, parla di una recessione più profonda delle attese, la peggiore dalla Grande Depressione. Però sentiamo anche cosa ha detto oggi Carlo Cottarelli, che è appunto direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica di Milano, nonché ex direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Sentiamo cosa ha detto oggi a Focus Economia, intervistato da Sebastiano Barisoni. È una crisi nuova, di tipo nuovo, nel senso che le pandemie che c'erano state nel passato, il mondo era molto diverso. 100 anni fa la spagnola, chi si ricorda degli effetti economici della spagnola, perché lì si ignoravano, si preferiva sacrificare 50-70 milioni di persone per non bloccare l'economia, perché questo purtroppo è quello che è successo all'epoca. Chi si ricorda gli effetti economici della spagnola? Però sono morti 50-70 milioni di persone. Adesso giustamente si sta più attenti alle persone e l'economia, temo, ne soffre di più. Però non ci sono chiari precedenti a cui guardare. E quindi l'incertezza è enorme. Diciamo, come ordini di grandezza, sì, sono quelli. In termini di debito pubblico, per esempio, l'Italia è chiaro che si arriva al picco storico dal 1861. Addirittura, quindi, Moria, per debito pubblico il picco dall'Unità d'Italia? Siamo messi malissimo? Sì, assolutamente. Il debito pubblico è atteso altissimo, per l'Italia è atteso dal Fondo Monetario al 166% del PIL, con un deficit quest'anno che potrebbe arrivare al 12,7% del PIL, ma i debiti pubblici saliranno in tutti i paesi perché gli stati hanno, chi più chi meno, chi in maniera più o meno efficace, ma tutti hanno agito in questi mesi per cercare di sostenere la ripresa economica, come dare ossigeno, sostenere l'economia. Hanno cercato di dare ossigeno a un'economia che era stata artificialmente bloccata. Il Fondo Monetario ha calcolato che gli stati hanno speso la spese e anche minori entrate fiscali, quindi hanno avuto, diciamo, uno sforzo economico pari a 11 mila miliardi di dollari a livello globale, e questo porterà i debiti pubblici globali a un record del pari al 101% del prodotto interno lordo. L'Italia purtroppo svetta in questa classifica con questo 166%, ma noi partivamo già da un livello molto più alto rispetto a tutti gli altri. Moria, però ti faccio sentire poco fa come, che cosa ha detto il ministro dell'economia Gualtieri rispetto a queste previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Noi siamo consapevoli, per le ragioni che ho detto, che i rischi rispetto alla nostra previsione sono a ribasso, e aggiorneremo a breve la previsione ufficiale e di ciò daremo conto. Riteniamo però errato esagerare in chiave pessimistica, perché la riapertura dell'economia sta già producendo effetti tangibili. Quindi, Moria, è un po' troppo pessimista il Fondo Monetario Internazionale sull'Italia, almeno? Allora, io non lo so e credo che non lo possa sapere nessuno. Io condivido quello che dice il ministro Gualtieri, perché in questo momento fare previsioni è veramente azzardato. Ci sono previsioni di tutti i tipi, ognuno dice la sua. Sono tutte molto negative, ma alcune lo sono più di altre. Attualmente è veramente difficile capire quali effetti avrà il coronavirus sull'economia, quali effetti duraturi, quali effetti strutturali, quali effetti nel cambiamento dello stile di vita di tutti noi, se saranno transitori, come tutti speriamo e come tanti economisti dicono, oppure se ci sarà uno strascico. Non sappiamo se il coronavirus tornerà, se ci sarà una seconda ondata. Già purtroppo ci sono alcuni casi in alcuni stati americani come Texas, California e Florida, oppure Brasile, che non è ovviamente gli Stati Uniti, o alcuni stati in giro per il mondo che stanno avendo già una sorta di seconda ondata. Allora, le variabili incerte sono talmente tante che secondo me in questo momento fare previsione è praticamente impossibile. E lo dimostra il fatto che quasi tutte le aziende quotate in borsa, più della metà per esempio di quelle quotate a Wall Street, per la prima volta nella storia hanno smesso di fare previsioni sui propri utili. Cioè, le stesse aziende dicono: io non posso prevedere come saranno i miei utili tra 3 mesi, tra 6 mesi, perché l'incertezza è troppo alta. Mi domando come possono istituti come il Fondo Monetario, l'Ocse e così via fare previsioni accurate in una situazione che, come diceva Cottarelli, non ha precedenti nella storia e soprattutto è ancora molto è ancora molto liquida, è ancora molto. Quindi si naviga a vista, come sul coronavirus, per le certezze, le conoscenze di questo maledetto virus, così quindi sulle sue conseguenze. Continuiamo a navigare a vista. Man mano ci aggiorniamo, insomma, su questa navigazione. Grazie Moria Longo, del Sole 24 Grazie Ore. Ciao, buon lavoro. Adesso vi aggiorno sul fatto che per quanto riguarda il calcio Serie A maschile, Inter Sassuolo è finita 3-3, mentre poco fa vi citavo Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, che diceva: sulle linee guida per la scuola vogliamo essere coinvolti. Adesso dichiarazione della ministra Azzolina, che dice: domani ci saranno le linee guida che saranno diffuse agli enti locali. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. A proposito di notizie, tornano gli orsi italici a far parlare di sé e anche a dividere con polemiche e reazioni opposte. Vi ricordate che abbiamo parlato, insomma, per quanto riguarda la cronaca, che un orso non ancora identificato nel pomeriggio di lunedì scorso ha aggredito padre e figlio sul Monte Peller in Val di Non, in Trentino. Allora, oggi è arrivata l'annuncio per il momento di una ordinanza da parte del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per abbattere l'orso. La dinamica dei fatti deve essere ancora chiarita, sugli abiti dei feriti deve essere rilevato il DNA di quest'orso, però non si sa se è maschio, se è femmina, insomma, quale orso deve essere inseguito. E però non è una novità, no? questa cosa, perché per esempio le orse Danzica e KJ2 tra il 2014 e il 2017 compirono 3 aggressioni, entrambe poi vennero abbattute, fioccarono le polemiche, e anche adesso è intervenuto il WWF, che dice che ha descritto questa eventuale ordinanza come una scelta improvvida e fuori luogo. L'associazione Animalisti Italiani Onlus ha promesso che se Fugatti attuerà quanto dichiarato chiederà l'immediata sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orso, così l'ENPA, insomma, e per esempio appunto dalla politica chiedono invece l'impugnazione del provvedimento i senatori Loredana De Petris di Liberi Uguali, presidente del gruppo misto, e Sandro Ruotolo. E a questo punto, insomma, che cosa succederà? Intanto si sta cercando, insomma, un confronto tra il Ministero dell'Ambiente e la Provincia Autonoma di Trento, perché il presidente della Provincia Autonoma dice in Trentino si stimano tra gli 82 e i 93 orsi, a cui si aggiungono anche i nuovi cuccioli, diventa difficile, dice, la convivenza tra orsi e esseri umani. Ne voglio parlare con Luigi Boitani, che è professore di zoologia all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera. Che dobbiamo fare con questi orsi, professor Boitani? Che cosa andava fatto? Più che cosa dobbiamo cosa andava fare fatto? Io sono un grande sostenitore della reintroduzione dell'orso nel Trentino e penso che la provincia abbia fatto molto bene. È un gran lavoro e pochissime altre autorità pubbliche in giro per l'Europa si sono prese una rogna di questo tipo. Quindi sono stati bravissimi, tecnicamente sono anche molto capaci. Quello che è mancato sin dall'inizio è un piano per il futuro, perché se c'è una cosa che una popolazione animale fa è crescere, soprattutto in una situazione come questa. Quindi andava previsto sin dall'inizio dove andiamo a parare, dove vanno gli orsi che si disperdono dal Trentino. Vogliamo parlare con gli svizzeri, dirglielo che prima o poi arriverà qualche orso nostro? Vogliamo dirlo agli austriaci, agli altri delle regioni confinanti? E soprattutto, quanti orsi vogliamo in Trentino? Perché qualcuno dire che sono troppi 100 è una sciocchezza, perché il troppo è una parola relativa, è troppo per me e poco per lei e così via. Quindi ho fatto un piano, dopo fatto un piano io non ho nessun problema a dire ok, il Trentino è disponibile per X orsi, ok, X più uno, quell'uno viene abbattuto se deve fare danni, se non fanno danni invece restano in totale coesistenza. Nel caso specifico di questo orso qui, poi mi sembra che manchi ancora la dinamica del fatto. Quindi come si fa a condannare un orso prima ancora di sapere che cosa è successo? Cioè lei dice potrebbe essere stato spaventato da queste due persone, più o meno volontariamente, involontariamente? No, questo può essere, magari si è svegliato all'improvviso quando ha sentito il rumore di questi due cari, non lo so, non lo sa nessuno. Comunque no, la dinamica va ancora chiarita. Lei dice giustamente, esatto, va fatto un piano, capire appunto quanti, perché sì, è stato fatto questo piano di reintroduzione, l'hanno voluto reintrodurre, certo, l'orso, a questo, certo, punto bisogna sapere quanti ne vogliamo e poi se diciamo ne avanzano, sono troppi, si decide quanti tenerne e quanti abbattere. Certo, perché se non fanno danno se ne possono tenere pure 1000, se fanno invece danno magari uno calibra il numero sul danno che la provincia è disposta. Senta, professor Boitani, ma è possibile seguirli, circoscriverli, io so, con un microchip, capire dove sono, quanti sono, tenerli? Perché magari uno fa una passeggiata e può rischiare di incontrare l'orso, che a me piacciono, però magari all'orso non piaccio io, diciamo. Certo, no, quello è un rischio. Oggi se si va in Trentino si rischia la gran fortuna di vedere un orso. Che cosa bisogna, ci dica solo in un minuto, che cosa bisogna fare e non fare se si incontra l'orso, professor Boitani? Non bisogna scappare. Non bisogna, questa è la cosa più importante. Quando c'è stato qualche settimana fa un incontro tra un ragazzino e suo padre con un'orsa, e il padre ha avuto il sangue freddo di filmare tutto il comportamento di questo ragazzino, è stato perfetto, perché si è allontanato, sì, piano piano, parlando molto forte, e quindi l'orso non l'ha nemmeno, l'ha seguito per un po' incuriosito e poi l'ha lasciato perdere. Quindi non bisogna scappare, nulla, guardare l'orso, no, ma allontanarsi piano piano, così, esatto, come se niente fosse, insomma, sì, si incontrasse, esatto, una persona qualunque. Vabbè, esatto, intanto facciamo tesoro di questi consigli del professor Boitani e soprattutto cerchiamo di capire, appunto, di fare una politica degli orsi, un piano chiaro, e dopodiché da lì prendere le decisioni e decidere una volta per tutte che cosa vogliamo fare di questi orsi. Grazie professor Luigi Boitani. Grazie a voi. Grazie della Sapienza di Roma. Oh, niente orsi, ma calciatori a San Siro per la Serie A con il nostro Dario Ricci. Caro Dario. Beh, direi sì, cara Roberta, che i consigli del professore saranno utilissimi ai giocatori dell'Inter, perché prevedo un Antonio Conte, tecnico nerazzurro, piuttosto arrabbiato Imbufalito? dopo il 3-3 Infatti, col Sassuolo. Sassuolo, soprattutto direi con Roberto Gagliardini che ha fallito a metà della ripresa un clamoroso gol che a quel punto avrebbe portato sul 3-1 i nerazzurri. Da un metro Gagliardini a porta vuota ha calciato incredibilmente sulla traversa, non tutte di Gagliardini, chiaramente le colpe di questo pareggio, un'Inter che è sembrata sottotono e piuttosto distratta. Ne ha approfittato il Sassuolo al quarto minuto in vantaggio con Caputo, poi la rimonta nerazzurra col rigore al 41esimo di Lukaku, al 45esimo poi il 2-1 di Biraghi, poi partita che si accende nel finale all'81esimo, il calcio di rigore causato da Young e trasformato da Berardi per il 2-2 degli Emiliani sembra finita, no, invece all'86esimo arriva su disattenzione della difesa emiliana il gol di Borja Valero, 3-2 per l'Inter, ma a 2 minuti dalla fine Magnani, l'ultimo entrato, ha siglato il 3-3. Per quanto riguarda le gare che si stanno disputando, è importante il risultato che si è modificato a Bergamo, perché la Lazio, che come sai sta inseguendo la Juventus in questa entusiasmante sfida scudetto, è in vantaggio sull'Atalanta. Al quinto minuto decide finora l'autogol dell'Atalantino De Ron, 0-0 invece ancora tra Roma e Sampdoria. Grazie Dario Ricci. Ricordo anche c'è stato un lutto oggi nel calcio femminile. La centrocampista di 21 anni Arianna Varone è morta in un incidente. Ci sentiamo alle 22.